E allora, se avete già indovinato da una clip meno facile, diciamo, di un film conosciutissimo, che film è, di che film si tratta, scriveteci il titolo del film e il vostro nome, cognome e indirizzo alla Rosa Purpure a @radio24.it. Ci sono due Blu-ray di questo film che vi aspettano. Più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Adesso Lina alla regia e fra poco Checco Zalone e Tolo Tolo. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, speciale musical del 2020. Abbiamo analizzato i musical cinematografici che sono pronti, che vedremo, che hanno già una data di uscita in Italia o in America. Parleremo di quelli che sono in preproduzione, però ce n'è uno che ci sta particolarmente a cuore, perché ha attaccato al cuore appunto lo scudetto dell'Italia, no? Come quando gioca la nazionale. Noi tutto sommato alla fine siamo sempre tutti un po' più patrioti. E chiaramente vedere un regista italiano, peraltro molto giovane, Nicola Batangelo, che si cimenta con un musical di produzione, vi assicuro, ho visto delle scene, insomma è ancora qualcosina, ma veramente stupefacenti, con un musical grosso, grande, in costume, ambientato nell'America degli anni 20, che si intitola appunto Land of Dreams, è stata un'emozione, e noi, Lucio, facciamo un po' il tifo per questo tipo di esperienze. Perché tu hai dimenticato una cosa, originale. Tra l'altro, ecco, originale, ecco, non ripreso da niente. Qui siamo a un musical cinematografico originale di un giovane regista italiano che, faccio la carambata, è con noi. Ciao, ciao Nicola. Ciao a tutti. Benvenuto alla Rosa Purpure. Allora, questo speciale musical non poteva fare a meno di Nicola Batangelo, perché sei il caso di cui gli appassionati di musical cominciano a parlare, perché un trentenne italiano che si spinge, appunto osa là dove volano le aquile, cioè nel territorio del musical, che è appannaggio di altre culture molto spesso, e lo fa con questa mano, una mano molto americana. Proprio io appunto ho visto quello che ci hanno fatto vedere a Torino durante il Torino Film Festival, di questa scena iniziale dove ci sono decine di persone, cantanti, attori che vanno, la tua macchina da presa che gira con una sorta di lungo piano sequenza. Ecco, c'è tanta ambizione, e è talmente tanto ambizioso che te l'hanno fatto fare, perché altrimenti chiaramente non sarebbe stato facile. Come è nato un po' questo progetto di Land of Dreams? Come sta Nicola Batangelo al musical, facendo una proporzione? Allora, tutto è nato in realtà con un corto che è uscito nel 2018, che si chiama Beauty, e che ha incrociato per un fortuito caso Marco Belardi, produttore appunto della Lotus Production, che vedendo questo corto ed essendo forse ancora più pazzo di me, ha deciso di darmi questa possibilità nello sviluppare appunto un lungo musical. Come sono arrivato al musical? Forse per tradizione personale. I miei hanno un'agenzia di spettacolo, quindi io ho sempre vissuto e sono cresciuto tra teatro, concerti, la strada, da un punto di vista artistico, quindi nel pensare a un mio primo corto e quindi a un mio primo progetto, io mi è venuto naturale pensare a immagini con musica e col canto. Penso che il canto è la massima espressione di un'emozione, e quindi nel musical ci sono un po' nato, non so come dire, me lo sento vicino, anche certo. Se è stato un amore arrivato da adulto, dico da adulto, anche se... Da adulto sempre... giovane, assolutamente. Ecco, esatto. Le musiche, perché in un musical ovviamente è fondamentale la tessitura musicale, sono firmate da Fabrizio Mancinelli, che peraltro è un altro italiano che ha fatto successo in America, visto che ha collaborato alle musiche di Green Book, film che ha vinto l'Oscar lo scorso anno. Però, sai, scrivere le musiche per un film è una cosa, per un musical chiaramente è tutta un'altra. Su quali tonalità, su quali onde? Raccontaci anche un filino la storia di questo musical, proprio la trama, di cosa racconta. E questo musical parla di sogni, te lo descriverei così, nel senso non di quello smielato, quindi se ci credi lo avrai o roba del genere, ma cosa vuol dire proprio sognare, perché sognare vuol dire anche illudersi, vuol dire anche essere ossessionati dal sogno e quindi paradossalmente allontanarsi dalla realtà, ma vuol dire anche lottare per un sogno per poi rendersi conto che è una cosa magari anche nel vederlo realizzato anche meglio di quello che immaginavamo nella nostra testa. E il sogno di quest'italiana ormai disillusa, che era andata a New York per poter trovare il successo, appunto vedendo la vita reale è totalmente disillusa, finché un giorno incontra un giovane ragazzo che però non esce mai di casa e che ha uno strano potere. Ecco, questo incontro porterà tutti e due i personaggi a fare un loro arco verso il sogno e verso la realtà, e quindi anche una love story. Senti, ho una curiosità io, posso? Assolutamente. Quello è il periodo, la Jazz Age, no? È quella che ha un po' codificato il genere del musical in America, per cui i grandi compositori, Gershwin, Cole Porter, insomma, erano gli anni in cui stavano affinando il loro repertorio, insomma, stavano imparando a diventare appunto i Gershwin e i Porter. È il periodo prima della crisi del 29. Tutto questo raccontato da un italiano, quanto è stato difficile intanto comunque farlo digerire agli americani, che veniamo noi a raccontarvi la vostra storia, e poi quanto di questo e di quei suoni hai riportato all'interno del film? Allora, assolutamente confrontarci con questo è stato il nostro primo problema, perché comunque appunto andare a insegnare agli americani una cosa che loro masticano è comunque un procedimento arduo. Diciamo che noi su questa cosa qui siamo un pochino usciti fuori per il semplice fatto che, parlando dei sogni e parlando di tutto l'arco che una persona fa, e quindi un sentimento abbastanza universale, riusciamo un pochettino a tenere New York, gli anni 20 e tutto quello che tu hai detto come un substrato sufficiente dove noi ambientiamo la nostra storia, e il fatto che uno dei protagonisti viva rinchiuso dentro casa ci aiuta ancora di più. Per quanto riguarda invece, diciamo, tutto quello che è il mood, la musica, la musicalità dell'epoca, l'abbiamo assolutamente ripresa, ma utilizzandola a livello emotivo. Quindi la musica non è perfettamente di quell'epoca lì, ma è comunque una musica che si ispira a quell'epoca, ma ha portato anche ai giorni nostri. E di questo, ad esempio, Baz Luhrmann è sempre stato un grande, certo, in questo, come anche The Greatest Showman, l'ultimo dei musical che ho scritto. So che tu, Nicola, proprio hai in Baz Luhrmann un po' un punto di riferimento, è vero? Beh sì, credo tutti. Sì, è un idolo, è uno dei primi che ha preso il musical, secondo me, e l'ha utilizzato in un modo assolutamente proprio, portandolo anche fuori da quelli che secondo me erano gli schemi classici. Certo. Sì, è un colosso che credo chiunque debba avere in mente prima di cimentarsi in un'opera del genere. Nicola, per chiudere, diamo un'occhiata al cast, perché tu hai messo dentro, intanto è un cast internazionale, e poi hai messo dentro, chiaramente contano le facce anche al cinema, no? E ti sei preso dentro qualche attore di grande popolarità, che però ha sempre delle caratteristiche musicali anche sorprendenti. Faccio dei nomi: Stefano Fresi, sappiamo essere un ottimo pianista, Edoardo Pesce, Carla Signoris, Paolo Calabresi. Ecco, come è stato lavorare con questi nomi del cinema molto popolari, molto conosciuti, però in declinazione musicale? Fantastico, perché avevo seguito loro in diversi progetti in disparte per poter capire se poteva andare bene per questo progetto, ma è inimmaginabile quello che pensavo rispetto a quello che poi ho visto durante le prove. Fantastico che si sono innamorati del progetto e hanno veramente dato il cuore, che per un'opera prima e questo mio primo progetto è stato veramente una cosa commovente. E ognuno di loro, tra l'altro, la cosa che mi è piaciuta tantissimo, che sono riusciti a tirar fuori quel personaggio cambiando completamente anche loro stessi, lo vedrete nel film, ma comunque hanno dei look molto particolari, una voce particolare, quindi no, è stata un'esperienza, certo, bellissima, di cui mi sono onorato. Lo vedremo nel film, quando? Questo lo vediamo, stiamo decidendo, adesso stiamo iniziando tutta la post-produzione, e poi dopo la produzione capirà quando è meglio farlo uscire. Diciamo che comunque è la seconda parte del 2020 sicuramente. Sì, comunque la post-produzione ha tantissimi effetti speciali, quindi comunque ha bisogno di una post importante. Certo. Ecco. E allora, grazie Nicola Battangelo. Io me lo segno. Ecco, scriviamocelo, perché chiaramente questo è un appuntamento per noi amanti del musical, di quelli da non perdere durante questa stagione. Noi siamo lì alla prima di Milano. Assolutamente, ma noi chiediamo anzi a Nicola di invitarci alla preview. Come VIPs. Assolutamente. Non ti chiedo il tappeto rosso perché siamo modesti. Ma io sì. Lucio Leone vuole il tappeto rosso, te lo dico. Scherzi. Grazie Nicola, ci sentiamo sicuramente qui alla Rosa Purpurea quando sarà il momento e quando questo tuo figliuolo musical sarà pronto. Grazie ancora. A voi. E allora, dal musical italiano che ci sorprende, che aspettiamo con grande curiosità, The Land of Dreams, ai musical in preparazione anche in questo caso, ma che saranno veramente quelli che contrassegneranno la stagione 2020 fine, 2021 inizio, perché sono lavori chiaramente di grande portata. Partiamo con un titolo, abbiamo parlato prima di questo diciamo astro affermato del musical mondiale, Lin-Manuel Miranda. Ebbene, regista cinematografico del nuovo musical Tick Tick Boom. Le note della versione teatrale di Broadway di Tick Tick Boom, Lin-Manuel Miranda, la mente dietro il musical Hamilton e In the Heights, dirigerà l'adattamento cinematografico di questo film, che tra l'altro si comincia a girare proprio in questi giorni. Tick Tick Boom è stato scritto, per quanto riguarda lo spettacolo teatrale, dal creatore di Rent, Jonathan Larson, e questa volta è toccato proprio a Manuel Miranda portarlo anche sul grande schermo. La storia, ambientata nel 1990, racconta di un ragazzo, un aspirante compositore di teatro, che vive a New York, lavora come cameriere e cerca di scrivere il musical che spera diventi il prossimo grande titolo americano, che si intitola appunto Superbia. Però un po' la pressione della sua fidanzata, che è stanca della solita vita ad aspettare le aspirazioni di John, e un suo amico e compagno di stanza Michael, che ha rinunciato invece alle sue aspirazioni per fare una vita più legata a qualcosa di remunerativo, diciamo così, daranno un po' la stura a quelle che sono le ambizioni di questo personaggio. Una storia vagamente autobiografica, ha sempre detto anche Larson, che Miranda porta in scena. Altro musical in preparazione, cinematografico in preparazione, è The Prom. Since champion football, I've been adored. Big man on campus, but oh so bored. My life was perfect, but so routine. I prayed for someone to intervene. And then you happened. The Prom è invece la storia realmente ispirata a un fatto realmente accaduto, la storia di un gruppo di attori di teatro che invadono una piccola cittadina dell'Indiana, che arrivano lì con lo scopo di sostenere una giovane studentessa, la quale non vuole altro che portare al ballo della scuola la propria ragazza. E qui c'è ancora il tema dell'identità sessuale che torna. Stavolta è Ryan Murphy a mettere insieme un cast davvero stellare: Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden e Ariana Grande, film che potrebbe essere pronto per la fine del 2020. Abbiamo messo insieme Tick Tick Boom e The Prom per dire, Lucio, che c'è un grande filo che unisce poi tutte queste produzioni. The Prom è appunto ispirato a una storia vera. Poi sai, alcune delle cose che noi siamo abituati a vedere nei film o nelle serie televisive, tipo la vita nel liceo americano, è una sorta di che ne so, di acquario, per cui c'è i losers, quelli con la L sulla fronte, cioè se non i vari gruppi. Da noi è un po' diverso, così come non esiste il mito della festa, la reginetta del ballo, The Prom, appunto, Prom Queen e via dicendo. Lo racconta, e spesso però capita anche di leggerlo sui giornali, di coppie dello stesso sesso che vogliono partecipare, a volte si scontrano con il veto di alcune frange conservatrici, che possono essere o gli altri genitori oppure il preside e via dicendo. Questa è una storia tipicamente americana che appunto è andata in scena con un grande successo a Broadway e che appunto è stata affidata a Ryan Murphy. Allora, perché questi due li mettiamo insieme? Perché Manuel Miranda e Ryan Murphy, appunto, Miranda lo citavi prima, Murphy è quello di American Horror Story, appunto di Glee e via dicendo. Tu dai le chiavi in mano a una persona che ha di fatto creato una propria cifra stilistica. Succede più o meno dovunque, nello show business americano in maniera forse un po' più evidente. Anche qui appunto abbiamo sentito, le sonorità di Tick Tick Boom sono non molto lontane da quelle di Rent, ma è comunque uno spettacolo per certi aspetti ormai datato. Era un minore, non ha avuto un grande successo fino a dopo la morte di Larson, e Larson era diventato quello che era diventato grazie a Rent. In questo caso invece appunto torniamo al filone cinematografico, per esempio di Pitch Perfect, no? Teatrale di Harry Van Hansen, che dicevamo prima, e che è un altro dei titoli che è più o meno dei quali si dice che si incomincia, certo, a pensare a una versione cinematografica. Ecco, credo che sia interessante. Sarà interessante, sì, sarà interessante anche vedere che cosa diventerà sul grande schermo, ma in live action, La Sirenetta. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea. Qui siamo sull'Hit Parade proprio, qui proprio La Sirenetta scomoda veramente tante riflessioni, generazioni e generazioni, soprattutto di bambine che oggi sono grandi, sono donne. Che si pettinano ancora con le forchette. Cioè. Soprattutto che sono cresciute con questo cartone animato come cartone di riferimento, uno dei musical animati bidimensionali più belli di casa Disney, che diventa un film, se ne è parlato tanto, soprattutto per le scelte di cast. Anche qui è stata contestata la scelta di Halle Bailey come Ariel, perché appunto afroamericana, si è detto ma c'era proprio bisogno, ma insomma mi sembrano polemiche sempre molto sterili, no? È stato scelto anche il principe Eric, sarà Jonah Howard King, Melissa McCarthy pare nel ruolo della strega Ursula, e insomma la Disney ci ha insegnato in questi anni che si è riuscita a realizzare cose straordinarie portando in live action i suoi cartoni animati. Qui è anche un musical, sicuramente l'attesa è veramente molto molto alta. Beh sì, anche perché appunto è stata la prima delle principesse, no? che della nuova generazione, dopo le Cenerentole, Aurora e Biancaneve dei nostri nonni. In quegli anni la Disney ha creato un nuovo modo di fare cinema, dando spazio a dei grandi compositori come Menken, come Elton John, insomma, che hanno scritto le colonne sonore di questi film. Allora, vediamo che cosa sarà. Io speravo sinceramente che Ursula l'affidassero, come si era per un certo punto ventilato, ad Harvey Fierstein, che è quel grande voce che sembra Paperino. Lui ha originato il ruolo di Edna in Hairspray a Broadway, anche perché Ursula era stata scritta sulla tenendo come velona Divine, la più famosa delle drag queen di Waters, no? Certo. E quindi avere una Ursula che tornava alle origini, però Melissa McCarthy va benissimo, facciamo andare benissimo, bene. Benissimo. E allora vedremo anche cosa succederà quindi con quest'altro progetto in preproduzione Disney, appunto il musical La Sirenetta, sempre per le stagioni più lontane, il tardo 2020, inizio 2021. Noi adesso diamo la linea alla regia, torniamo e parliamo di Ghost, perché è il titolo forte dal cinema al teatro in Italia, versione musical. Sarà con noi Federico Bellone fra poco. La Rosa Purpurea. Hungered for your touch alone, lonely time. E le note di Unchained Melody, giuro che Lucio Leone stava per dirmi se volevo ballare, ma io gli ho detto di no. No, io volevo fare un vaso, va bene? Ecco, anzi l'ho visto fare il vaso, giuro, visto fare il vaso di terracotta, scusa, io preferivo ancora Demi Moore, però voglio dire, non importa, sono gusti. Siamo ormai quasi nel 2020. Ecco, assolutamente, fai pazienza. I vasi allora. No, perché vi facciamo ascoltare in questa nostra puntata speciale dedicata al musical e arrivata ai musical che calcheranno i palcoscenici di Broadway, del West End, ma anche italiani, perché questo è il grande, ti viene da dire, l'unico grande titolo da film, da cinema, proveniente dal cinema, che contrassegnerà un pochino la stagione 2020 del musical teatrale in Italia. Ghost, quindi, rivivremo le vicende di questa coppia che, come dire, la vita ha diviso drammaticamente, ma che si ritrova in una dimensione che non è quella terrena, ma è quella ultraterrena. è un musical di grande successo, anche questo a Broadway, dove succedono cose mirabolanti, mi raccontava Lucio prima. Degli effetti incredibili. Incredibili, ma a portarlo in scena in Italia è Federico Bellone, che è in collegamento con noi. Ciao Federico. Ciao a tutti. Eccoti, ben ritrovato alla Rosa Purpura. Federico Bellone, regista di tanti musical di spettacolo. Ne vuoi dire qualcuno, Lucio? Dai, dacci. Resto solo su quelli che partono da film. Ma sì, dai, dacci 3-4. Mi ha fatto Newsies, Dirty Dancing, Sunset Boulevard. Federico, lo mettiamo dentro comunque, perché hai fatto anche quello. Non l'hai portato in giro, però è un po' un peccato. Io quello speravo di vederlo e quello me lo sono adesso perso. Ti racconto la sfiga. Poi succederà. Vedi? Aspetta, devo raccontare questo su Sunset Boulevard. Devo raccontarti la cosa fantastica. Vado a Londra a vedere Sunset Boulevard per andare a vedere Glenn Close. Quei due giorni che sono a Londra si ammala Glenn Close. Ma com'era? Lo spettacolo era straordinario. Ora non ricordo il nome della performer che l'ha sostituita. Mi dicevano molto più brava di lei e mi dicevano essere, forse voi che siete super super super esperti lo saprete, mi dicevano essere la persona per cui, la cantante per cui Weber ha scritto questo musical, ed è stata un'esperienza incredibile, cioè veramente rivedi il film, ma lo rivedi con tutta la magia del musical a Londra. Fine dell'aneddoto. E adesso però è in scena anche Charlie. Che per me è il musical italiano dell'anno. Sì, anche per me. Senza dubbio, scena, proprio. Federico, non so se te l'ho detto, ma la scena dell'ascensore, io mi sono ritrovato con la bocca aperta, che se fosse entrata una mosca me la mangiavo, perché mi sono ritrovato con lo stupore di un bambino. È uno spettacolo splendido. Mille Lucio, poi detto da te è un grandissimo complimento. Però Federico, parlaci di questo Ghost. Allora, Ghost è uno spettacolo che io ho sempre voluto fare, perché il copione, la sceneggiatura, che poi insomma l'autore è lo stesso, l'ho appena conosciuto per la prima di Ghost a Madrid, ed è una persona deliziosa, è un testo molto forte, nel senso che sapete benissimo che a volte i musical o i film musicali da cui si traggono i musical capita siano molto molto leggeri e quindi difficili da portare in scena, perché un conto è quando c'è un musical o un film dichiaratamente molto leggero come Grease, che non ha pretese, allora è facile, ma quando invece c'è una pretesa di drammaticità tipo Dirty Dancing è molto difficile portarlo in scena, perché dove si può al cinema avere un'inquadratura, un pianto, una espressione, una mano su una sedia che racconta un mondo, in teatro ovviamente utilizzando lo stesso copione è molto più difficile, perché il linguaggio è diverso. Mentre Ghost è un testo che già funziona teatralmente, perché tu hai in scena sempre, tutto il tempo, un protagonista che non viene visto da nessun altro degli interpreti, ma solo dal pubblico, quindi ha un qualcosa, anche se diciamo un po' tirato per i capelli, un po' di pirandelliano, quindi è già teatrale di per sé. Quindi io lo volevo fare da una vita. È successo che mi è capitato prima di dirigerlo a Londra, e devo dire che sono una persona abbastanza obiettiva, nel senso che quando mi viene qualcosa male lo dico abbastanza in maniera serena. Di questa produzione sono entusiasta, intanto perché ha avuto un successo straordinario qua a Madrid, vende, perché sono in Spagna io in questo momento, vende 1000 biglietti al giorno, e credo che sarà il primo musical della società che lo produce che sarà in scena 2 anni consecutivamente. E poi perché l'abbiamo riportato, rispetto ad altre produzioni nel mondo, a una dimensione molto più intima, che non vuol dire piccola senza effetti speciali, ma anzi di effetti speciali ce ne sono anche di più, però molto più a livello di prosa, cioè ovvero il rapporto che c'è tra i protagonisti, questa medium e questo amico, appunto, che poi come sapete non diciamo niente, ma si svela avere un'altra identità. Quindi sono molto contento e sono felice adesso di farlo subito uguale in Italia. Ecco, uguale, speriamo che sia anche con l'omino che vi raccontava prima Lucio, che passa attraverso la porta senza che il pubblico se ne accorga, perché se mi fai questo effetto speciale davvero siamo a livello cinematografico. Federico, tu credo che sia uno dei più grandi amanti di Houdini. Decidendo quale usare, anche qua a Madrid li alterniamo spesso. Ma no, stavo dicendo che gli effetti speciali, i giochi di prestigio con Houdini... diciamo che la tua conoscenza del personaggio e l'amore per quella storia e quella carriera, insomma, oltre al musical che firmerai su Houdini a Broadway, credo che ci sia spazio anche qui, no? è pieno di effetti speciali, e tant'è che i produttori originali di Londra dello spettacolo, in realtà uno è americano e l'altro inglese, ci hanno chiesto il contatto dell'illusionista che ha realizzato questi effetti. Si chiama Paolo Carta, che è lo stesso che ha fatto Mary Poppins in Italia e che dal bianco al nero, dal giorno alla notte, sta avendo tutte queste richieste da questi produttori, compreso Cameron Mackintosh, che è il produttore di Catch e di Mary Poppins, per lavorare all'estero, perché effettivamente il suo punto di vista, il suo modo di realizzare gli effetti speciali in palcoscenico li ha molto colpiti, addirittura loro che si sono abituati a lavorare a Londra e a Broadway. Quindi questo signore che si chiama Paolo Carta è un piccolo genietto e è quello che ha realizzato anche l'ascensore di Charlie che citavi prima, no? Straordinario. Quindi ha un'applicazione, è un illusionista. Assolutamente. È il direttore artistico di Gardaland, che trova un grande impiego nel teatro con grande successo. Ecco Federico, allora sganciamo la bomba. Dai, che siamo, io lì siamo verso la fine della nostra trasmissione. Quali sono, sai, come io mi immagino Federico che va come i mercatini della Rive Gauche, no? Va lì a cercarsi a spulciare, no. Invece no, lui va per teatro. No, lui è quello come cielo manca. Esatto. Quindi cosa ti manca? Cioè, su cosa stai? Hai messo gli occhi per farlo di qualche paro di film, per farli diventare musical prossimamente in Italia? Allora, appunto, purtroppo non è come il mercatino, sono lunghe conversazioni e negoziazioni molto faticose, però diciamo che tutto il filone Disney, quindi quell'epoca che chiamate nel mondo del cinema la Renaissance di Disney, quindi dalla Sirenetta, dall'Aladdin in poi, credo che sia il futuro che mi attende. Quindi sostanzialmente immagino nei prossimi anni di lavorare su La Sirenetta, che uscì nell'89, se non sbaglio, cartone animato, Aladdin, che uscì qualche anno dopo. Poi credo possa accadere anche un Tutsi, il film con Dustin Hoffman. Questi sono un po' gli impegni che appunto mi si pongono davanti, e poi adesso in questo momento sono a Valencia davanti al teatro, dove debuttiamo tra due giorni con Bodyguard, Guardia del Corpo, che è quel film con Kevin Costner e Whitney Houston. E Whitney Houston, e debuttiamo qua a Valencia per una lunga tournée che poi finisce a Madrid tra un paio di anni, quindi sempre da film, come giusto che sia. Molto, insomma. molto bene. Allora Federico, noi ti aspettiamo innanzitutto qui alla Rosa Purpurea con Ghost, quando sarà il momento ne riparleremo, e insomma buona caccia allora dei titoli più rappresentativi per mettere un po' di polpa nel nostro carniere musical dei prossimi anni. Va bene, grazie infinite del vostro tempo. L'augurio, siamo in radio, non credo di poter fare l'augurio teatrale, ma quella roba lì per il debutto. Tanto l'abbiamo capito. Grazie. E passiamo ai musical, invece, dopo Federico Bellone, ai musical ispirati a film, in arrivo a teatro, a Broadway e nel West End. Qui si tratta quindi di assolute novità molto spesso, come per esempio il caso di Mrs. Doubtfire. Ha qualche particolare capacità? Oh sì, certo, io faccio le voci. Cosa intende dire con faccio le voci? Bella signora, io faccio voci, faccio. Sì! Cercavamo sulla Terra una vita intelligente. Ops, abbiamo sbagliato. Io vengo di Iran! Robin Williams, ci manca tantissimo, davvero. Straordinario in questo film, Mrs. Doubtfire, che diventa un musical a Broadway. Diciamo qualcosina in più, Lucio. Che cosa vuoi dire? Che appunto il pubblico cinematografico è sicuramente un serbatoio a cui tutti strizzano l'occhio. Se ne sono accorti adesso in questi giorni a Milano, anche fino a dopo le feste, sono in scena con Singing in the Rain, che è stato il primo film che poi è stato trasportato a teatro, e si sono accorti che lì funziona. Perché? Perché ci sono dei titoli che entrano nel cuore o nella storia, nel costume. Insomma, prima parlavamo dei vasi fatti da Demi Moore e Swayze, è inevitabile. Si cerca un po' l'effetto nostalgia. Certo, assolutamente. Non sempre questo è male. No, qualche volta sì. No, qualche onestamente volta sì. Sì. No, non necessariamente, tra l'altro, appunto, è interessante capire come un personaggio che, come dire, antravestì quello di Mrs. Doubtfire, quindi, come dire, che ha una sua logica e una sua storia teatrale, perché pensiamo a quanti musical, per esempio, sono stati, appunto, penso a Tuzzi, penso a Hairspray, a quanti personaggi. Victoria dall'altra parte. Esatto, dall'altra parte. Quindi, insomma, è sicuramente una sfida interessante. Così come è molto interessante pensare di tirar fuori un musical dal Diavolo Veste Prada, no? Quindi bisogna scrivere una cosa che non era tutt'altro che musical al cinema, ma che diventa musical. È stato annunciato il cast in questo caso? Sì, sì, è stato annunciato il cast, il che vuol dire che, insomma, ci siamo. Stanno lavorando. In America poi iniziano le preview a un certo punto, ma succede spesso che lavorano su qualcosa e quello che poi arriva a Broadway ha imparato dagli errori delle preview. Noi questa cosa, per questioni economiche, meramente economiche, è impossibile farlo. Certo. Lì uno spettacolo costa mediamente quanto un film e può originare invece molti, ma molti più soldi di un film, perché quando pensa a spettacoli come il Phantom, come Wicked, certo, stanno su 20 anni. Ma Wicked ogni settimana solo di biglietti sono 2,5 milioni di dollari che sbigliettano, certo, più tutto l'indotto, più i diritti, più il merchandising, capisci? Assolutamente è un'industria di altre dimensioni. Altri titoli in America, Broadway, Magic Mike per esempio, The Bodyguard, un revival, si spogliano, Beaches, insomma tanti titoli. Nel West End a Londra, che è anche un po' più raggiungibile da noi italiani se vogliamo andare a fare un weekend musical, aspetta la Brexit, ecco, no, arriva Moulin Rouge. Parlavamo di Baz Luhrmann e qui stavo allicchiando su Patti LaBelle. Assolutamente, e fu un film molto interessante, Moulin Rouge, al di là di una di Nicole Kidman scintillante, una storia ispirata evidentemente alla storia della Traviata, ma sappiamo che Baz Luhrmann è molto molto amante dell'opera, ce l'ha fatto già capire. Io ho visto una sua regia straordinaria della Bohème a Broadway, però della Bohème di Puccini, cioè di quella vera, con la regia di Baz Luhrmann, e sembrava di essere dentro Moulin Rouge, è un mondo un mondo di luci, di colori, di scintille straordinario. Moulin Rouge è uno spettacolo che anche musicalmente ha tante hit dentro, tutte riarrangiate, insomma c'è da andare a Londra qui. Appunto, come dicevi tu, ci sono dei momenti e dei film che riaprono il genere. È successo con I Miserabili, è successo con Chicago, è successo con Moulin Rouge. Fortunatamente solo il problema, La La Land l'ultimo, insomma, fortunatamente per un po' si apre un filone, poi piano piano si esaurisce fino al prossimo capolavoro. E ricordiamo anche che nel West End arrivano altri titoli straordinari per la provenienza cinematografica: Pretty Woman, tanto per dire, Ritorno al futuro, vederlo musical è molto molto interessante. Insomma, c'è molto materiale per chi si vuole organizzare, appunto, ma mettere lì magari un weekend intensivo, due o tre spettacoli tra il venerdì e la domenica. Ma sai che proprio esiste il turismo teatrale? Sì, sì, assolutamente, certo. Anche perché ormai con le moderne low cost non ci sono problemi, come dire, a programmarsi un viaggio, certo, e ad andare nella capitale, in una delle due capitali mondiali del musical, appunto, che è Londra, insieme a New York, a Broadway. Noi siamo arrivati alla fine di questa corsa incredibile, speriamo di avervi fatto, come dire, accendere la fiamma della passione per il musical per un altro anno. Adesso io ricongelo Lucio Leone, prima lo faccio salutare, poi lo metto in frigo, lo riscongelo l'anno prossimo. In frigo per l'età, no, la naftalina, dai. Naftalina, va bene, naftalina fa più vecchio. Come età beta. grazie davvero per essere stato qui con noi a raccontarci tutto il musical che c'è, parafrasando il payoff della Rosa Purpurea. Ci sentiamo magari prima dell'anno prossimo. Ma grazie dell'invito, per me, lo sai, io mi diverto sempre molto a venire qui e quindi sì. Sì. Vediamo. Ci vediamo. Sì. E allora, buon musical a tutti, buon proseguimento di feste. La Rosa Purpurea, quella normale che vi racconta il cinema del weekend, torna sabato prossimo alle 18:00.